La quota rosa di Elisabetta Fiorito. Buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi non possiamo non occuparci dell'argomento scottante della settimana: veline, letterine, letteronze nelle liste del PDL e poi cancellate dalle liste del PDL, e anche la rivolta delle deputate del PDL, ma soprattutto vediamo un attimo la composizione delle liste sia del PD che del PDL per queste europee. E noi, come al solito, siccome siamo la quota rosa, andiamo a spulciare se effettivamente i partiti qualche cosa fanno per queste donne in Parlamento, a parte le letterine e le letteronze. Abbiamo un totale di candidati tra PD e PDL con una percentuale uguale: 28 donne PDL, 28 donne PD, percentuale del 38% delle liste. Per parlare di come sono state composte le liste e soprattutto anche dell'ultimo scandalo familiare di casa Berlusconi con Veronica Lario che si ribella alle letterine e alle letteronze, abbiamo con noi Barbara Saltamartini, deputata PDL, responsabile nazionali pari opportunità PDL. Buongiorno. Buongiorno a voi. Federica Mogherini, deputata PD e responsabile istituzioni nel Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno. Allora, iniziamo dal centrodestra, che è stato un po', diciamo, il punto di snodo di questa settimana, con una lettera di Veronica Lario, con la cancellazione nottetempo, si parla, i rumors si dice a Montecitorio, le chiacchiere di Montecitorio parlano di questo vertice di partito convocato in piena notte in cui si sono cancellate le ragazze dello show business. Onorevole Saltamartini, le risulta? No, io guardi, non solo non mi risulta, ma colgo l'occasione per parafrasare, diciamo, una nota opera in cui si diceva tanto rumore per nulla, mi viene da dire tanta cattiveria per nulla, perché è stato detto un po' di tutto su queste liste, soprattutto le nostre liste del PDL. La lettera della signora Lario è stata letta come la lettera che ha fatto sì che queste liste fossero pulite, mi chiedo da che cosa, perché poi, insomma, il termine pulizia che è stato usato anche ieri, nella giornata di ieri, su tante agenzie di stampa che ho letto, insomma, sinceramente mi fa un po' ridere, oltre che farmi arrabbiare, ovviamente. Credo che alla fine le liste che noi abbiamo composto rappresentano la società nel suo complesso, una società che purtroppo, ahimè, anche a causa di alcuni media, non tutti, ci tengo a precisare, è una, diciamo, una società un po' morbosa nei confronti dell'immagine femminile, per cui c'è sempre chi è più attento a come si è vestiti o a se si è carine o meno, piuttosto che alla qualità della persona. Io quello che ho tenuto a far sì che fosse rispettato nelle nostre liste, grazie al lavoro di tutte le donne che io oggi ho l'onore e l'onere di rappresentare, è che ovviamente fossero selezionate persone non solo carine, perché quello, diciamo, non fa male a nessuno, ma soprattutto che, diciamo, la bellezza non fosse l'unico criterio o il primo criterio di selezione. Ho voluto che ci fossero donne, e ringrazio i coordinatori del PDL, perché poi le liste le abbiamo fatte insieme ai coordinatori nazionali, ho lavorato affinché ci fossero curriculum di donne che comunque avevano un'esperienza politica più o meno lunga nel tempo, un'esperienza politica che non può essere soltanto quella di carattere elettivo, e laddove non avessero avuto questa esperienza politica, se non altro avessero comunque sia ben chiaro il compito che avranno da svolgere laddove elette. Tra l'altro, lo ricordo, noi votiamo con un sistema per le elezioni europee, con un sistema a preferenza, per cui queste donne eventualmente saranno valutate dai cittadini, che sceglieranno in totale autonomia, perché questo è il principio della democrazia, chi far salire al Parlamento europeo e chi non. Un ragionamento però che vale anche per i signori uomini, perché poi si sta tanto attenti a quali sono le figure femminili candidate, mi piacerebbe che ci fosse la stessa morbosità anche nei confronti dei colleghi uomini. Ma Ignazio La Russa, ministro della sua parte politica, ieri ha detto che c'è il velino anche di sinistra, e sarebbe Davide Sassoli, vice direttore del TG1. Insomma, Davide Sassoli però ha anche attitudini politiche, insomma, ha dimostrato di essere un professionista. Vede, qui il principio è uno, secondo me, o almeno l'elemento di riflessione, anzi voglio essere molto più umile in tal senso. E chi giudica nell'ambito dei percorsi personali di ognuno effettivamente le capacità politiche? Le capacità politiche si possono misurare in tanti modi, al di là della professione dalla quale si arriva. Le capacità politiche, le faccio il mio esempio personale così non offendo nessuno. Io quando ho iniziato a far politica, seriamente, per cui con un impegno quotidiano, avevo 19 anni, non ero né laureata, non avevo ancora svolto nessuna professione, ho iniziato e sono stata valutata per quello che ero, ossia per le idee che avevo, per i valori che esprimevo e per le capacità che erano tutte, diciamo, ancora in uno stato di così adolescenziale, per le capacità che probabilmente sarei stata in grado di esprimere. La prima volta che mi hanno candidato nel 1997 al Consiglio Municipale di una delle circoscrizioni, allora si chiamavano circoscrizioni a Roma, io ero il signor nessuno, ero una ragazzina probabilmente carina, forse più carina della media, e anche lì ebbi una serie di attacchi personali. Me ne infischiai sinceramente di quello che si diceva, da lì ho cominciato, per cui ho avuto anch'io un punto di inizio. Io all'epoca su cosa mi si poteva giudicare il mio curriculum? Su nulla, perché soltanto su una carriera di carattere scolastico, neanche universitario, perché ancora non ero neanche laureata. E purtroppo, mi dispiace dirlo, per occuparmi totalmente di politica ho rinunciato alla laurea. Mea culpa, perché comunque è un fatto importante nella vita personale di ognuno. Ciò nonostante, c'è sempre un inizio e c'è sempre chi giudica i curriculum di chi arrivano, delle proposte che ti arrivano sul tavolo. Per cui io non amo, glielo dico molto sinceramente, chi da una parte e dall'altra, anche all'interno del mio stesso partito, si è lasciato ad andare ad attacchi, diciamo, più personali che politici. Per cui non condivido totalmente le tante espressioni della mia maggioranza rispetto ad alcuni candidati della parte opposta. Le dico però che la cattiveria che ho visto nei confronti di alcune delle nostre candidate, soprattutto da parte di alcune donne dell'opposizione, sinceramente mi lascia un po' perplessa, perché allora evidentemente siamo ancora nel periodo Eva contro Eva, che sinceramente, insomma, mi auguravo fosse passato, no? Le donne si devono sostenere comunque, nel senso, noi ci lamentiamo che non c'è una rappresentanza femminile, ci lamentiamo che le donne non accedono alle liste, ci lamentiamo di tante cose, poi nel momento in cui arrivano, se sono carine devono essere per forza poco intelligenti o non devono avere meriti. In questo io ringrazio, l'ho fatto anche pubblicamente, il leader del Partito Democratico Dario Franceschini nel suo mea culpa che ha lanciato sulle colonne della stampa la scorsa settimana, in cui diceva sul ministro Carfagna, per esempio, ammetto di aver avuto dei pregiudizi per cui l'avevo giudicata soltanto per il suo aspetto estetico, oggi devo ricredermi perché sta facendo, al di là della condivisione dei progetti del ministro Carfagna ovviamente da parte di Franceschini, sta comunque portando avanti il suo lavoro con molta serietà e con molta determinazione. E noi, io la interrompo perché dobbiamo dare la linea alla regia, noi diciamo sempre che ringraziamo il ministro Carfagna per aver portato a casa, diremo noi donne, lo stalking e l'inasprimento delle leggi sullo stupro. La quota rosa. Molto si è discusso di Veronica Lario, di Silvio Berlusconi, di questa famiglia del premier, della festa, di questa figlia dell'autista di Craxi, però poi Bobbo Craxi dice che non è assolutamente, che non era l'autista del padre, ma insomma, molto si è discusso. Torniamo invece a parlare delle liste. Allora, anche il Partito Democratico ha presentato le liste, stessa percentuale del PDL, siamo lontani da quel 50% che prometteva l'allora segretario del Partito Democratico Walter Veltroni. Federica Mogherini, cosa si deve fare perché ci sia proprio una parità di genere nelle liste del Partito Democratico? Ma guardi, stavolta avendo un sistema elettorale che grazie anche alla nostra, anzi soprattutto alla nostra battaglia in Parlamento, vede la presenza delle preferenze, stavolta il punto non era tanto quante donne ci sono in lista, stavolta il punto è eleggerle le donne, perché poi una volta messe in lista devono prendere tantissime preferenze, abbiamo delle circoscrizioni molto ampie e abbiamo appunto il problema anche dei costi economici che vanno affrontati per fare una campagna elettorale del genere, ed è qui su cui bisogna fare un investimento serio da parte dei partiti. Noi abbiamo messo il 40% delle donne in lista e però abbiamo approvato parallelamente un impegno del partito a destinare alla campagna elettorale delle donne che sono in lista il 50% delle risorse che il partito spenderà per la campagna elettorale. Questo significa dare pari opportunità. Poi è chiaro che le preferenze esprimeranno appunto il grado di preferenza per l'appunto degli elettori rispetto alle candidate donne, rispetto agli candidati uomini, rispetto a diverse candidate donne e diversi candidati uomini. Però stiamo mettendo a disposizione delle donne candidate il 50% delle risorse economiche per fare campagna elettorale, perché appunto non sia soltanto un'operazione di numero che rischia, altrimenti in un sistema di preferenze, lo sappiamo benissimo, di tradursi in un magari 50% di candidate nelle liste e 0% di elette, cosa che assolutamente non sarebbe positivo. Con ecco, ricordiamo un attimo che avete anche una capolista che è Rita Borsellino per l'Italia insulare. Borsellino, abbiamo altre candidate, Silvia Costa, molto forti in posizioni, diciamo, per molto l'Italia alte. Centrale, sì. L'Italia centrale, c'è Deborah Serracchiani nel nord-est, ci sono Deborah Serracchiani, ecco, insomma, Deborah Serracchiani è stata una scelta, no, anche nuova, perché sì, era venuta fuori con questa discussione. Franceschini ha colto l'occasione da Udine. Sì. Per... sì, noi abbiamo delle liste di persone molto, molto vere, se mi si passa il termine, cioè di persone che rappresentano un mix di innovazione, di competenze, di esperienza. Ci sono i più giovani e i meno giovani, ci sono le donne e gli uomini, ci sono generazioni diverse, ci sono realtà territoriali diverse, proprio perché, essendo liste che poi vanno incontro al vaglio delle preferenze degli elettori, ognuno può trovare in queste liste, diciamo così, i candidati che più rappresentano il proprio profilo e anche il proprio impegno in Europa, perché poi c'è questo sullo sfondo che rischiamo di dimenticare, che i candidati alle europee poi andranno il giorno dopo a fare un lavoro molto importante al Parlamento europeo. Circa il 60% delle attività anche parlamentari nazionali che noi facciamo, anche dell'attività ministeriale a livello nazionale, è in qualche modo orientata dalle direttive che il Parlamento europeo prende, quindi è un lavoro molto serio, e per questo abbiamo fatto la scelta di fondo, purtroppo unici tra i partiti in Italia, di candidare tutte persone che dal giorno dopo prendono già l'impegno di essere a Bruxelles e lavorare per l'intera legislatura al mandato che gli elettori daranno loro. Il problema delle altre liste, e questo riguarda le donne e gli uomini, indipendentemente dal loro genere, è il fatto che chi candida, come il PDL, ma anche come altri partiti, penso all'Italia dei Valori, ad altri, chi candida candidati ineleggibili per legge al Parlamento europeo, di fatto blocca le liste. Perché avere 3, 4, 5 candidature in testa di lista che raccoglieranno moltissime preferenze, penso a Berlusconi, penso alla Russa, penso ad altri, e che poi il giorno dopo non andranno a Bruxelles a fare il lavoro per cui sono eletti, automaticamente faranno scattare i candidati che sono invece più in basso nella graduatoria delle preferenze e che quindi gli insomma questa è la, è la polemica su Silvio Berlusconi e su Ignazio La Russa. Ricordiamo, il premier è candidato capolista in tutte, esatto, le circoscrizioni, esatto. Dario Franceschini ha contestato questa scelta, come è candidato il leader dell'Italia dei Valori Antonio Di Pietro. Vorrei ricordare per par condicio che la prossima settimana ci occuperemo poi anche degli altri partiti. Ricordiamo anche per i nostri radioascoltatori che Deborah Serracchiani è una consigliera di Udine che ha un po' scosso il Partito Democratico, dicendo che appunto bisogna imparare ad assumere decisioni, se necessario anche sulla maggioranza e se necessario lasciando a casa qualcuno. Ma lei sente un po', onorevole Mogherini, Davide Sassoli come il velino del Partito Democratico? No, e sinceramente tutta questa discussione mi sembra un po' artificiale. Io sono contenta che in qualche modo non parliamo del tema della vicenda familiare della famiglia Berlusconi, perché in un momento come ricordiamo questo, che Walter Veltroni la voleva candidare Veronica Lario, Sì, sì, ma non è questo il punto. Il punto è, e la Saltamartini credo che su questo sia d'accordo con me, lo ha ricordato prima, lei diceva la bellezza non può essere il primo unico criterio. Io andrei un passo oltre: la bellezza non è un criterio, non è neanche l'ultimo dei criteri per candidare, per selezionare le candidature. Questo non significa penalizzare chi ha di bell'aspetto, significa semplicemente che l'elemento estetico non è uno dei criteri per valutare se una persona può fare bene il proprio mestiere al Parlamento europeo. Il che significa che non è un criterio né in negativo né in positivo, non è semplicemente un criterio, non è nell'elenco delle cose da valutare quando si pensa a chi ci rappresenterà al Parlamento europeo, perché non è una sfilata di bellezza, non è un concorso. Il criterio di selezione può essere la competenza, può essere la formazione, anche se anche qui il lavoro politico non necessariamente si può valutare, anzi forse non si può affatto valutare sulla base del numero delle lauree o delle lingue parlate, anche se parlare qualche lingua in Europa non fa male. Io direi che forse... Io direi che forse invece proprio per il Parlamento europeo, almeno l'inglese in maniera abbastanza significativa, bisognerebbe saperlo. Una lingua comunitaria sì, anche perché è vero che si può parlare italiano al Parlamento europeo, ma il grosso del lavoro, così come al Parlamento italiano, non si fa in aula, si fa nelle trattative sugli emendamenti piuttosto che sulle risoluzioni o sugli ordini del giorno, e sono cose che si fanno da parlamentare a parlamentare, quindi gli italiani troppo spesso si trovano con appunto scarse competenze linguistiche a non riuscire neanche ad entrare in contatto con i loro omologhi degli altri paesi, oltre al fatto che appunto abbiamo il grande problema tutto italiano, ci torno perché è veramente serio, io ho frequentato parecchio il Parlamento europeo negli anni scorsi, tutto italiano, di avere un turnover enorme dei propri parlamentari europei, di tutte le forze politiche, il che rende praticamente impossibile il fatto di instaurare dei contatti di lavoro seri, credibili e prolungati, che consentono poi a un paese di essere anche rappresentato con credibilità, con autorevolezza. Il fatto di continuare a candidare, siamo l'unico paese europeo dove questo succede, candidare leader o di partito o di governo all'europeo, sinceramente è un danno anche per le donne. Allora io però le devo permettere all'onorevole Saltamartini di rispondere, e poi anche una polemica all'interno da PDL, no? Saltamartini fa parte dell'area N, anche se oramai siete confluiti in tutto un partito eccetera, dell'area N fa anche parte Fare Futuro, la fondazione di Fini, che ha aspramente criticato la storia delle veline in politica. Onorevole Saltamartini, il PDL appena nato è già diviso? No, io non la leggo in questo modo, anche perché, le dico sinceramente, io sono una di quelle sostenitrici che le fondazioni che poi aderiscono al PDL, che sono fondazioni che nascono sia all'interno di AN che all'interno di Forza Italia, debbano essere in qualche modo svincolate dalle dinamiche di partito, perché le fondazioni servono, soprattutto quelle che hanno una forte impronta di natura culturale, servono per alimentare il dibattito. Quindi sinceramente io l'articolo della professoressa Ventura che ha voluto fare in parte lo condivido, anche nel senso, anche perché poi la professoressa, diciamo, non si limita all'unico aspetto che i giornali hanno voluto riprendere, che giornalisticamente era quello più appetitoso, e le dico sinceramente che di quell'articolo condivido esattamente l'analisi da cui la professoressa parte, e allo stesso tempo non ho condiviso la critica così aspra nei confronti della selezione delle liste, perché parlava di cose che probabilmente neanche lei stessa conosceva, nel senso che poi purtroppo bisogna parlare sui fatti e non sui gossip né sui rumors che si sono rincorsi in questi giorni nelle nostre aule parlamentari. Certo, in transatlantico. Io la interrompo perché vorrei sempre per par condicio dire anche quali sono le candidate del Popolo della Libertà. Abbiamo Valentina Prea, che è già stata sottosegretaria all'istruzione, e poi abbiamo anche Laura Carò, Elisabetta Gardini, a proposito di una persona che viene dal mondo dello show business, però ha fatto anche politica, soprattutto poi Roberta Angelilli, Cristiana Muscardini, cioè Roberta Angelilli è invece esattamente quello che è il contrario di quello che diceva appunto Federica Mogherini, è già stata in Parlamento europeo. Esatto. Un'ultima domanda flash, proprio 30 secondi per lei e 30 secondi per l'onorevole Mogherini. C'è questa sensazione in Italia che il Parlamento europeo sia un po' inutile, no? Sia un luogo dove alla fine poi non si decide nulla, perché le decisioni vengono prese dalla Commissione, e quindi è inutile poi andare a Strasburgo, e per questo c'è questo turnover. Che cosa bisogna fare per modificare questa mentalità? Allora, onorevole Saltamartini, e subito dopo l'onorevole Mogherini. Guarda, io sono convinta esattamente il contrario. Il Parlamento europeo è una sede importantissima e lo sarà sempre più negli anni e io spero anzi che effettivamente tutti gli Stati membri ne prendano coscienza a partire dall'Italia. Al Parlamento europeo, come diceva la mia collega del PD, si decidono importanti direttive che poi gli Stati membri devono diciamo acquisire e seguire, per cui lì si forma tra l'altro una coscienza europea. Onorevole Mogherini? Sì, le forze politiche devono in modo più continuativo possibile, non soltanto quando gli fa comodo, intanto riconoscere che quello europeo è un livello dove appunto le decisioni vengono prese, secondo quelle che vengono prese sono rilevanti non soltanto per l'Europa in senso astratto, ma per i cittadini di ogni paese europeo. Allora, noi ringraziamo Federica Mogherini e Barbara Saltamartini, PD e PDL. La prossima settimana invece discuteremo delle elezioni europee con gli altri partiti. La quota rosa. Nella prima parte abbiamo parlato delle donne che si candidano al Parlamento europeo, in questa parte invece vogliamo parlare delle donne dell'Estremo Oriente. Insomma, nel nostro immaginario collettivo la geisha è Madama Butterfly, però attualmente a Kyoto le autorità pensano invece di proteggere le geishe, o meglio le geisha, perché poi ce lo spiegheranno se c'è questo plurale. Insomma, noi in italiano diciamo così, le geishe, cioè ci sono le ronde antituriste in difesa delle Madama Butterfly di oggi. Per parlare di questa figura femminile molto importante nella cultura giapponese, ma anche nell'immaginario collettivo, noi abbiamo oggi Roberta Strippoli, che è visiting professor al Bates College del Maine, ma a settembre andrà alla State University of New York, assistant professor, una carriera accademica iniziata addirittura a Roma alla Sapienza. Buongiorno. Buongiorno. E Asami Tajima, giornalista giapponese che vive a Roma. Buongiorno. Buongiorno. Allora, intanto a Asami Tajima voglio chiedere, si dice geishe o si dice geisha? Geisha. Anche il plurale? Sì, perché per noi la lingua giapponese non esiste plurale singolare. Ah, non esiste plurale singolare. Ma esistono ancora, lei che è una giornalista, quindi ha il polso della situazione in Giappone, esistono ancora le geishe o le geisha? Geisha. Le geisha esistono ancora in Giappone? Cioè è una figura rilevante? Certo, certamente. Che cosa fanno oggi? Cioè, per noi praticamente loro è come un artista di varietà che concretizza la nostra cultura tradizionale. Quindi adesso le geisha sono diventate artisti tradizionali. Sì, anche storicamente è l'artista, solo che cioè, all'estero soprattutto sviluppato come una specie di fantasia per gli uomini, però in realtà cioè, loro sono stati sempre artista. Sì. Roberta Strippoli, con lei proprio parliamo di questa figura, quando è che appare in Giappone e insomma noi pensavamo che le geisha fossero le amanti, no? Il controaltare della donna giapponese, della casalinga giapponese, no? No, la geisha è una figura professionale vera e propria che assume la forma che diciamo riconoscibile di adesso nel XIX secolo. E sì, in passato molte geisha avevano magari degli amanti che erano degli uomini importanti, forse anche adesso, ma assolutamente la geisha è una professionista, è una figura professionale, come ha detto la signora Tajima, parliamo di artista, come se appunto se fosse un artista di varietà, un artista che è andato attraverso, cioè che ha imparato molto a scuola, che ha avuto un training molto lungo e anche complesso e anche molto costoso. Ecco, che cosa devono imparare le geisha? Molte arti, poi dipende dalla persona, per cosa è portata, però c'è la danza, c'è il canto, c'è la musica, cioè una serie di strumenti tradizionali che le geisha suonano e ripeto, queste cose non si imparano così in modo dilettantesco, ecco, vanno imparate bene e con anni e anni di training. Quindi non è più una professione che insomma per noi era un po' l'amante giapponese collegata poi alla Madama Butterfly, oppure anche Confessioni di una geisha, il romanzo da cui poi è stato tratto un film. Del romanzo di Arthur Golden preferirei parlare a parte. Perché però, voi è ciarpame, come direbbe una nostra moglie di un rappresentante politico. Anche qui dagli Stati Uniti. Cioè per voi è ciarpame questo Confessione di una geisha? È molto controverso. Comunque, tornando per un attimo all'argomento precedente, lei diceva che la geisha si rappresenta un certo tipo di donna. Questo è vero, cioè... La geisha è una sorta di idealizzazione vivente di un modello femminile che può o non può esistere nella realtà. Invece per quanto riguarda il libro di Arthur Golden, devo dire è un bel libro. Io lo dico con un po' di sofferenza. Con rammarico, sentiamo la sofferenza, sì. Perché è un libro scritto da un uomo americano che si finge donna giapponese, insomma ci sono un po' di problemi con questa cosa. Però devo dire è un libro molto molto ben scritto, ci sono una serie di errori, ma non sono... La protagonista, cioè la donna sulla quale lui si è basato, ma c'è tutta una lunga storia anche di tribunale, perché lei l'ha denunciato, l'ha querelato per una serie di motivi, e poi lei stessa ha scritto una sua autobiografia che io ho letto e che purtroppo devo dire è meno attraente del libro di Arthur Golden. Ho capito, quindi insomma ha fatto bene Arthur Golden. Allora, Asami Tajima, le geishe sono sempre state confuse con le prostitute, quindi lei ci dice che questo qui è un falso. Cioè, storicamente non posso dire che è falso, però cioè, non è questo, soltanto questo, perché anche per essere, diciamo, padrone di geisha, deve essere un uomo, non so, prima di tutto, cioè, di cultura, di... cioè avere lo status, avere anche, cioè, l'uomo ricco per sostenere questa geisha a tutto il punto di vista della sua vita. Quindi c'è anche questo padrone che deve avere la massima responsabilità di una vita di geisha. Che è l'amante, però, perché lui poi è una moglie ufficiale. Sì, però c'è tantissimi personaggi della storia nostra e famosi che avevano, cioè, questo amante geisha, però cioè, non tutti, non dico tutti, ma le moglie, loro moglie che lo sapevano che, cioè, non, il suo marito ha questa amante di geisha. Insomma, era alla luce del sole. Ma qual è la condizione oggi della donna in Giappone? Perché la cultura giapponese è sempre stata un po' tacciata di maschilismo, in cui la donna poi non emerge, è uno dei pochissimi paesi industrializzati dove la maggior parte delle donne rimangono a casa e l'80% non lavora, ed è molto strano rispetto agli altri paesi industrializzati dove invece la maggior parte delle donne lavora. Perché non si riesce poi a equiparare la situazione femminile con quella maschile in un paese così ad avanzato sviluppo tecnologico ed industriale? Però cioè, la società giapponese di oggi è completamente diversa, le donne lavorano. Sì, ma anche... poche però, Però comunque cioè, non tutte le casalinghe che rimangono a casa per servire il suo marito, non è così, cioè, anzi che le mogli hanno più libertà rispetto al suo marito e quindi cioè, non sono costrette a stare a casa, cioè, proprio loro certa che vogliono vivere così. Che vogliono vivere a casa. Eh sì, preferiscono rimanere a casa invece di lavorare perché ci sono tanti posti di lavoro fuori. Ecco, sentiamo Roberta Strippoli, qual è la condizione delle donne oggi in Giappone? Si è un po' evoluta, perché c'è questo... Concordo con la signora Tajima riguardo al fatto che c'è un cambiamento visibile in corso. Anche nella mia esperienza personale, la prima volta che sono andata in Giappone era alla fine degli anni Ottanta. Molte mie coetanee contemplavano tranquillamente l'idea di terminare l'università, poi sposarsi e fare le casalinghe. E adesso le giovani donne in Giappone hanno dei progetti diversi. C'è una natalità molto scarsa in Giappone, come in Italia. Come in Italia, appunto. Che in certo senso, adesso non voglio fare un'analisi sociologica affrettata, però è un po' un indice del fatto che le donne si stanno riorganizzando e stanno cercando di valutare le loro opzioni. Però, quindi ecco, c'è una generazione nuova di donne giapponesi che hanno meno intenzione di restare in casa. Però devo aggiungere, cosa che ha accennato anche la signora Tajima, che la donna giapponese tradizionale che è a casa, cioè la famiglia nucleare tradizionale, vede la moglie come sì casalinga, però allo stesso tempo manager della famiglia. Perché amministra i soldi. La donna giapponese sì, la moglie giapponese tradizionale, nella coppia tradizionale lei a incassare lo stipendio del marito e a dargli il pocket money, insomma. Sì, sì, quindi è un'amministratrice dentro le mura domestiche, il per marito da tutti i soldi. Sì, è un po' affrettata come analisi dire la donna sta a casa. E... Perché lei tiene i cordoni della borsa. Ultima domanda flash sia per Roberta Strippoli sia per Asami Tajima. Quanto una scrittrice poi famosissima in Italia, ma insomma non so poi in Giappone, quanto Banana Yoshimoto ha influenzato un po' la rivoluzione femminile in Giappone? Beh, Banana Yoshimoto è stata un bestseller incredibile in Giappone prima che in Italia, non è soltanto famosa in Italia, è famosa in tantissimi paesi del mondo e specialmente in Giappone. Insomma, però è stata una persona che ha segnato uno spartiacque, quindi una scrittrice forse giapponese. Più che ora lascio la parola a Tajima in un secondo, ma forse più che influenzare è una cartina tornasole di quello che sta succedendo in Giappone. Allora, Asami Tajima, Banana Yoshimoto è stata una rivoluzionaria giapponese, diciamo rivoluzionaria tra virgolette ovviamente. No, cioè, non credo così forte, cioè, ovviamente è diffuso molto, è famosissima. Diciamo che lei ci ha dato nuova ispirazione della nuova vita quotidiana, nuova vita moderna, però l'evoluzione è successo prima di Banana Yoshimoto, secondo me, quando anni 80, le donne che hanno cominciato a uscire nella società, a lavorare, a trovare posto, non soltanto questa influenza dal romanzo di Banana Yoshimoto. Tutta la società Giappone, quel periodo è stato sviluppato così. Quindi diciamo insomma c'è un'accelerazione e insomma noi da Madama Butterfly, noi italiani siamo affascinati dall'opera da Madama Butterfly che si uccide, però la società giapponese è cambiata, le geisha come abbiamo appreso hanno le ronde antituriste perché subiscono pesanti molestie e quindi ora ci pensano le autorità di Kyoto e poi soprattutto noi consigliamo i libri di Banana Yoshimoto che sono molto divertenti, molto sottili e anche molto leggeri, molto piacevoli alla lettura. La quota rosa. Ci sono giovani cubani appositamente incaricati di minare il sistema, firmato Fidel Castro. Ebbene sì, una di loro è Yaoni Sanchez. Cuba Libre, vivere e scrivere a L'Avana, edizione Rizzoli, con il suo blog ha praticamente denunciato gli abusi del sistema cubano. Ho vissuto fuori dal mio paese e sono tornata perché ho capito che per me la vita non è da un'altra parte, ma in un'altra Cuba. E poi è stata inserita da Time tra le 100 persone più influenti del 2008 e in effetti lei sta facendo una rivoluzione sul web. Per parlare di Sanchez, di capire che chi è, che cosa fa, abbiamo con noi Gordiano Lupi, scrittore, giornalista tra Italia e Cuba, traduttore di tutti i testi della Sanchez. Buongiorno. Buongiorno. Allora, chi è questa donna? Quanti anni ha? Com'è successo? Che cosa ha fatto? E quanto ha minato poi il regime cubano? Ma Yoani è una ragazza poco più di 30 anni, fa parte della generazione Y, dice lei di se stessa, cioè di quelle ragazze che non hanno conosciuto il comunismo, che non hanno conosciuto l'ideale comunista della rivoluzione cubana e che adesso stanno invece subendone la deriva. Ioani è una filologa, è una laureata in filologia, è una scrittrice validissima, i suoi testi sono pura letteratura spagnola, ha vissuto all'estero e poi si è resa conto che invece il suo posto era in patria, doveva continuare a scrivere, ma per essere credibile doveva farlo dove si soffre. È voluta rientrare a Cuba, ora non può più uscirne, però da lì scrive questo blog che è secondo me pericoloso, prima di tutto per lei, ma pericoloso anche per la durata della dittatura cubana. Non è facile, scrive Ioani, per noi cubani informarci su quel che accade. Abbiamo imparato a leggere tra le righe, a sospettare di ogni informazione e a dubitare di ciò che dicono quei signori in giacca e cravatta che parlano nei notiziari. Quando viene fuori un titolo che annuncia ristabilito il servizio D, si stanno dando due notizie in una, ma quella che non è mai stata resa pubblica è che qualcosa prima non stava funzionando, mentre adesso lo farà. I ristoranti vegetariani, per esempio, che 7 anni fa riempirono la città e le pagine della stampa, adesso hanno chiuso i battenti e nessun giornalista ufficiale si occupa di raccontare la loro fine. Ecco, anche molto divertente, cioè prende spunti proprio dalla quotidianità, Gordiano. Racconta il quotidiano, lo fa ricorrendo a metafore, però fondamentalmente racconta la sua vita. La paragonerei un po' a scrittori come Eric de Armas, che è un cubano che ha scritto, pubblicato in Italia, Elena Siquedó, Il papà también, è uscito da poco, o ma anche scrittori come Gutiérrez, come Padura Fuentes. Tutti questi scrittori cubani veramente bravi riescono a vivere sul loro corpo certe ferite e riescono a trasmettere anche a chi legge la durezza, la difficoltà di vivere in una situazione come quella cubana. Ioani ha 30 anni, non ha fatto la rivoluzione ovviamente, per chi non è mai stato a Cuba vogliamo raccontare quello che avviene durante i viaggi a Cuba. Si viene accolti all'aeroporto con la porta d'ingresso che è controllata da un poliziotto, si entra in questo mondo dove non esiste il gelato se non quello comunista con fragola, cioccolato e vaniglia, no? Ci sono questi grossissimi contrasti, poi si va nel villaggio turistico dove c'è di tutto. Ecco, come vivono i giovani questa situazione? Ma la vivono con un senso di ribellione, quasi tutti cercano di scappare, la fuga è il primo appellativo del cubano. I ragazzini circolano una barzelletta divertente a Cuba dove la madre dice al figlio cosa vuoi fare da grande e lui risponde lo straniero, perché effettivamente gli stranieri sono i padroni di Cuba, a loro tutto è concesso, ai cubani no. Non è questo il motivo per cui a Cuba c'era stata una rivoluzione. Per questo il cubano vive nella speranza di trovare in un modo o nell'altro il modo per uscire. Per questo io ritengo Ioani Sánchez ancora più eroica, perché lei questo modo di uscire l'aveva trovato. Viveva in Svizzera tranquilla, poteva continuare a scrivere dalla Svizzera, fare la sua vita, ha deciso di rientrare e di mettersi in gioco. E ricordiamo invece la rivoluzione cubana con questa conquista dell'Havana a Capodanno, con gli americani in fuga. Insomma, fu un momento epico che però viene celebrato in maniera ossessiva all'Havana, no? Il Museo della Rivoluzione, l'icona di Che Guevara dappertutto. Allora, Gordiano Lupi, tu che sei uno scrittore tra Italia e Cuba, quanto tempo ti sei fermata a Cuba e quando ha intenzione di ritornare? Ma a Cuba la prima volta ci sono andato 12 anni fa, poi ci sono ritornato periodicamente per diverse questioni, almeno un paio di volte all'anno. Adesso da 2 anni circa mi hanno tolto il permesso di rientrare, sia a me che a mia moglie, questo per i libri che scrivo, per gli articoli che ho scritto, non ultimo penso anche per essere diventato il traduttore e l'amico anche di Ioani Sánchez, che non è certo una persona ben vista dal governo. È vero che chi contesta il governo non può poi assolutamente lavorare nel turismo, che è l'unica fonte di reddito decente a Cuba? E chi contesta il governo non può far nulla, perché se si vuol fare l'università bisogna essere iscritti al Partito Comunista. È lui che decide, il potere decide la carriera che può fare una persona. Il turismo, non si può andare spontaneamente a lavorare nel turismo, bisogna trovare il sistema per andarci. Essere fuori dall'apparato vuol dire essere fuori dai posti più importanti dove si può veramente ottenere del denaro. Ci sono quelle cose assurde a Cuba, il professore che smette di insegnare per andare a fare il tassista privato, oppure l'ingegnere che lo troviamo a fare il cameriere d'albergo, non tanto per lo stipendio quanto per le mance che superano uno stipendio. Non tutti sanno che a Cuba lo stipendio massimo è $30, quando di mance in un albergo dove vanno stranieri si fanno $30 in un giorno senza troppi problemi. Dalla fuga di Battista, da quel famoso primo gennaio, ad oggi con l'embargo e l'apertura invece di Barack Obama, cambierà qualcosa? Ma l'embargo secondo me è sempre stato un falso problema. L'embargo è servito al regime per farsi forte e per unire la popolazione contro un nemico, un presunto nemico al di là dell'oceano. Speriamo che venga tolto in tutti i sensi, speriamo che venga tolto, perché così verrà tolta questa scusa del nemico e questa scusa degli Stati Uniti che avrebbero affamato Cuba. Io spero molto in Obama, spero meno in Raul Castro, perché come dice Ioani, è vero che Obama è il nuovo, ma Raul Castro non lo possiamo chiamare il nuovo. Raul Castro è una persona di quasi 80 anni, è membro di una famiglia, di una dinastia ormai, che sta governando Cuba da 50 anni. E abbiamo sentito allora Gordiano Lupi, scrittore tra Italia e Cuba, traduttori di tutti i testi di Ioani Sanchez, ricordiamo, in libreria Cuba Libre, Vivere e scrivere a La Habana, Rizzoli, e ricordiamo anche la frase di Fidel Castro: ci sono giovani cubani appositamente incaricati di minare il sistema. Noi vorremmo commentare così, meno male che ci sono questi giovani. E adesso apriamo una parentesi per ricordare una donna, una giornalista che ha lottato per le donne. Ilda Bartoloni, ideatrice di Punto Donna del TG3, giornalista Rai, ci ha lasciato, ma noi la vogliamo ricordare perché Ilda era venuta ospite anche da noi, anche alla Quota Rosa. Con questo ricordo io vi lascio. Ringrazio Paolo Corleoni in regia, Riccardo Silvi in redazione. Vi ricordo che ci potete scrivere alla Quota Rosa @radio24.it, ma sentiamo le parole di Ilda Bartoloni. Le ragazze hanno oggi una libertà del corpo che certamente le ragazze, tra virgolette, degli anni 70 non avevano. Le ragazze oggi sono consapevoli del fatto che possono chiedere, quindi fanno richieste al maschio, e il giovane maschio, devo dire, perlomeno dalla mia inchiesta, dal mio libro inchiesta, risulta molto incomprensivo. Fino a 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, forse 40, 30, le donne erano abituate ancora storicamente a desiderare non per sé, ma per il marito, per i figli, e quindi a non dichiarare questa ambizione di voler fare, di volersi realizzare, di voler far carriera. E lo stesso nei confronti del desiderio sessuale, del desiderio del proprio piacere. La mia generazione è una generazione che si è assorbita frasi, non so se posso, come questa: se non avevi l'orgasmo, il ragazzo vicino ti diceva sei frigida, e tu te lo tenevi questo apprezzamento. Oggi una ragazza non se lo tiene, perché oggi una ragazza sa che la sua sessualità è differente. Inutile parlare orgasmo clitoridea, orgasmo vaginale, punto G. La sessualità della donna, di fatto, se no non se ne parlerebbe così tanto su questi famosi orgasmi, è diversa da quello dell'uomo.